spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma con Chiara Perra, Giulia Quadrelli, Mia Daschio Suppiei e Stefano W. Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the person. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone popping and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worthy of a girl like me. I can do way better than you, it's all glory. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, you're like you, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. I ain't being too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much bush. I ain't being too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get hit with, I suggest you just slush. Diciamo. Pronto? Tutti Roberto Ratti. Diciamo Roberto Ratti. Roberto Ratti. Andate. Date you, 'cause I am the shit, yeah, I am the lick. And you should pipe down, go make like real young and leave right now. 'Cause I can turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite it down. I don't really care the earrings you wear, the ups and downs in and out of your hair. I don't really care with the girl who works there, the what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, you're like a no more sick. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I feel too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think the biz walking way too much bookers. I feel too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you flush. Io non so cosa possiamo altro dire. Possiamo dire siamo tutti qui. When we went Paris, remember that time? Yeah. I tried to do something nice, you just whined. I bought you champagne, but now you want wine. It's a real pain, just make up your mind. I made up my mind, you're wasting my time. You ain't got no right, you wait all the pies. Cause I know five guys who's waiting in line. So I bet you that slide and say your bye-bye. No, che se vuoi il tuo microfono te lo do. No, dai, stasera siamo solo in tre. Sì, sì. L'importante è che quando tossite lo fate proprio attaccato al microfono. Certo. Aiuto. Eccoci qua. Siamo alla... Adesso ve lo dico. È vero, mi manca il numero. La 518esima puntata di Coxo Spaziale. E adesso ve lo scrivo. Siamo qui negli studi un po' mesti di Radio Città Fujiko questa sera. Siamo perché... qua, abbiamo portato delle cose per consolarci. C'è anche del cioccolato che dicono che aiuta, no? Esatto. Fa sviluppare endorfine, lo diceva anche Nanni Moretti. Esattamente. Perché siamo intanto completamente esauriti. No, perché esauriti? Abbiamo detto Roberto Ratti? Perché, non ci, è, perché ci ha paccato. Perché non, non è venuto. Non è venuto lunedì scorso, non è venuto questo lunedì. Lunedì scorso non è venuto perché aveva paura di non riuscire a installare Arte Fiera, il suo padiglione di Arte Fiera in tempo. Mentre invece... Adesso lo doveva disallestire. No, siccome ha venduto tutto, stasera ha detto vado al casinò di Sanremo, andate tutti a fanculo. Hai capito? Capito. Questo è il modo poi in con cui si tiene alta, no? Cioè uno guadagna, poi sputtana tutto a Sanremo esatto. E quindi dopo ci domandiamo perché il mercato dell'arte è in crisi. Io anche invece... se magari forse ci diranno stasera che non è in crisi, perché siamo qua? No, io mi domandavo perché non sentivo la musica di sottofondo. Perché non c'è? No, è bassissima. Boh, non lo so, qualcuno ha azzerato tutti. Ecco. Io non ho toccato niente. No, non sei tu. Ma stiamo abbassando molto il livello di, come dire, di aspettativa del nostro pubblico che si sta domandando se siamo soli. non siamo soli. Non siamo cane, orologio, cane rappresenta vero amore. Cane morto, cane morto, cane morto, cane morto. Ecco. C'erano i nostri ospiti in questa, durante la registrazione di questo happening? Questa era la figlia di Ludovica Carbotta, Lina, che salutiamo, che cantava quando ha sentito la parola cane morto, ha deciso di cantarla. E devi sapere che presentiamo gli ospiti. Gli ospiti che stasera sono qui non potevano essere altri che Simone Menegoi, direttore di Arte Fiera, ex direttore di Arte Fiera. Sottolineiamo già le cose, no, perché sei già congedato. Pensavo che sono oggi fossi congedato ancora. Ah sì? Cioè, proprio già da oggi? Domani restituisco il badge. Ah, vedi. C'è solo il badge o ci sono anche, non so, c'è il passaggio della chiavetta, no? Se quelli, il cellulare, che peraltro io non usavo quello personale. E quindi va bene. A rischio poi naturalmente di farmi molestare da tutti i galleristi d'Italia. Che continueranno a farlo. Che uomo coraggioso. Sì, infatti. Ma adesso posso bloccare gli account. Ah, fantastico. Quale sarà il primo account che bloccherà? Non vogliamo sapere il nome, ma solo il cognome o il nome della galleria, capito? Ecco. Non c'è problema. Adesso hai un grado di libertà tale che potresti anche spingerti a queste affermazioni. E Guidalina Piselli invece naturalmente domattina naspi, giusto? No, perché ho la partita IVA e non credo mi venga concessa. Ma... Ah beh, allora un cazzo. No, esatto. ma anch'io ho la partita IVA, che non si cosa creda. Ah, vedi? Sì. Hai capito. Io l'ho sempre mantenuta. Perché non potresti, scusa, come direttore di Arte Fiera avere la pantita, cioè cosa c'è di strano? Non colgo l'incongruenza. Non c'è nessuna incongruenza, però appunto io non ero un dipendente, io non sono stato un dipendente, io ero un consulente. Ma tutti i direttori, no? Sono consulenti. Allora, facciamo questo inquadramento giuridico, cioè il direttore di Arte Fiera è un consulente. È un consulente, sempre. Sì. Sempre. Cioè, non è il direttore incardinato. Fai una cosa, avvicina un po' il microfono a te, perché sento Simone un po' troppo alto e te un po' troppo bassa. Vediamo se questa millimetrica qua giustamente. Così va benissimo. Ma io volevo capire una cosa. Quindi adesso Simone Menegoi si è già congedato da direttore di Arte Fiera. Io ho visto ieri che facevo un brindisi con un po' di gente nella VIP lounge e non mi chiedere perché io ero nella VIP lounge. Questo, se non lo sai tu, ti sarai sicuramente imbucato di nascosto usando la tessera rubata. No, ero con un VIP, è molto semplice, che fra l'altro è Andrea Meregalli. Non so perché lui avesse Andrea Meregalli ha fatto a proposito di, perché noi stavamo parlando prima, grande parentesi, così i nostri ospiti intanto si acclimatano. Stavamo parlando stranamente di allergie alimentari. Mi viene in mente che Andrea Meregalli ha fatto questo lavoro, se ho capito bene, con i bugiardini dei farmaci, dando l'impasto all'intelligenza artificiale. Mi è sembrata una cosa geniale. Poi vengono fuori delle cose molto simili ai miei sintomi quando sono sottoposta all'effetto dell'allergene. Vabbè. Comunque, avevamo qui anche Guidalina Piselli, che però non è che tu ti automaticamente congedi, cioè rimani personal assistant di Simone o? In realtà il mio contratto è finito ieri, anche se oggi ero in un ufficio al padiglione dell'Esprit Nouveau a disallestire. Non sono degli oggetti volanti, è molto bello il suono, è una roba da gran cazzo, anzi da pianoforte di cui si sbatte il... No, se vuoi ti do anche un martelletto con cui puoi picchiare direttamente sul microfono. Anzi, fai una cosa, potresti aprire quella scatola di biscotti che così facciamo un po' di rumore radiofonico. Facciamo un po' di foley artist. Sì, facciamo rumore. Allora, siccome cominciano i festival, allora io ho portato anche dei regalini qua per tutti, perché in diretta per allietare. Hanno detto loro, gliel'ho chiesto, hanno detto che lo volevano in diretta, poi dopo li spiego seconda parte della puntata, però intanto li mettiamo qui così li vedono. Io avevo una proposta concreta. Sì. Da domani potrebbe Simone fare il personal assistant di Guidalina Piselli. Cioè potrebbe, così nessuno dei due non lo so, dopo aver fatto l'assistente per 4 anni a Simone non sono certa di volerlo come assistente personale. Faccio questa risposta grandiosa. Guidalina in the house. Ecco, Anche se in realtà prima, per esempio, vi siete in macchina, vi siete scambiati i ruoli, non so bene perché. Ma sentiamo cosa ci dice il nostro Marco Roma oggi, visto che alle 9:11 ha mandato questo. Buongiorno, ovunque tu andrai, portami con te, portami dove vuoi, l'importante è che sarai insieme a me e noi saremo per sempre insieme. Da Marco Roma, buongiorno. Cioè, io secondo me Marco Roma a questo punto è perché questa è preparata. No, eh. È decisamente un insider. Un veggente. O è uno del mondo dell'arte. Perché non è possibile insider, che lo sia oggi abbia mandato questo. Sì, è abbastanza incredibile. E dunque, io avevo una domanda per Simone. Come hai fatto a sopravvivere? Ah, ecco, questa è un'ottima domanda. Ma sai che non lo so neanch'io. Io lo so. Perché c'ero io. Perché c'era la Guendalina Pisello. Oh, raga, se volete vado via, cioè, no. Ditemelo subito. No, intuisco che la mia presenza è superba. No, te lo dico perché il primo anno non c'era Guendalina o sbaglio? È no? Vero. È vero, c'era Gloria Bartoli. C'era Gloria Bartoli che salutiamo. Era muscolare, oltretutto va tutt'altro ruolo, quella era vice direttrice. Infatti. Allora, mi ricordo che però tu eri Gloria Bartoli alla fine della fiera. Eri più stanco. Vedi. Ma perché Gloria era vice direttrice e non assistente, esatto. L'assistente, io non avevo un assistente. Personal assistant è tutto un altro, tutto che alleggerisce la vita. Devo dire che però il tuo vice direttore non è stato poi male. Non è stato poi male nel come dire, cioè dopo che Gloria se n'è andata e tu finalmente avevi il personal assistant, dico Enea Righi come vice direttore, no, non è stato poi male. Operativo che è un altro ruolo. Aspetta, no, facciamo uno schema perché io introduciamo gli spettatori, andiamo al con le complicato cose organigramma, esatto, delle fiere. Ecco. Allora direttore artistico io è una e si occupa di quello che dice la definizione, per lo più del rapporto con le gallerie e dei contenuti del programma di eventi, oltre che insomma impostare una linea generale della manifestazione. Direttore operativo che invece si occupa di aspetti più tecnici, che però sono è quello vitali. Che si è preso gli insulti quando qualcosa va male, giusto? No, quello è più il direttore artistico. Ah, okay. Però anche perché Enea Righi non lo insulta nessuno, però non osa insultarlo nessuno. Però si occupa di cose più tecniche. Sì, no, project manager Alessandra Del Vino, che è veramente la spina dorsale della manifestazione. Gli altri cambiano, lei rimane. Ed è la sovrintendente. È un po' come l'Uliana Zanetti. Segniamoci questo manco. Nome. È un buon paragone. Esatto. Sì, perché bisogna andare d'accordo con Uliana. Esatto, e lo stesso con Alessandra Del Vino. Se non vai d'accordo con Alessandra Del Vino, non fai arte fiera. Ok, perfetto. E dunque, e poi finita lì l'organigramma? No, poi continua con altre figure, però insomma magari non dettagliamo fino all'ultimo uomo o donna la situazione. Anche perché, però visto dall'esterno, anche perché capito, se io lo lascio così suggestivamente vaga, magari la gente pensa che siamo in 200, invece poi siamo in 5, per cui non vorrei mai. Beh, però, sì. No, allora non avevo dubbi perché un giorno... 5 mettere insieme tutto questo po' di io devo dire che non ne avevo dubbi, perché un giorno ho telefonato alla segreteria di Art Verona, sì, tipo a metà anno, giusto per avere per sentire se per caso avessero già la data pronta, e mi ha risposto il direttore di Art Verona. Vabbè, per però, cui da lì ho Bologna, capito, stai già paragonando Bologna e Verona, cioè stiamo già facendo, secondo io me abbiamo già infilato. Chiara, io ti ringrazio molto per un paio di gaffe per questo puntino sulla I, però vabbè, insomma, comunque. Ma dunque ti hanno chiesto di dirigere Art Verona oggi? No, mi era stato proposto di partecipare al concorso. C'è un concorso. C'è stato. Okay. Un concorso su? È un concorso per la selezione del nuovo direttore. Ah, per la selezione del direttore. Perché invece a Bologna non c'è il concorso. A Bologna c'è la chiamata dall'alto. Lo elargiscono. Esattamente. Bologna è famosa per essere tutta improntata sull'elargizione. Dirigistica. È un'economia dell'elargizione. Coni oggi questo termine per descrivere il sistema economico bolognese. No, perché possiamo dire chi è il nuovo direttore di Artefiera. Certo. Lo dicono loro. È ultra ufficiale. 3, 2, 1, Davide Ferri. Ok. Che tutti quanti conoscono, no, forse i nostri ascoltatori. Beh, no, perché infatti, noi abbiamo anche Davide Ferri, c'è da dire che ha sempre curato la parte della pittura di Arte Fiera, tranne il primo anno in cui però era comunque presente, perque ha curato una grande mostra delle collezioni pubbliche di Bologna e dell'Emilia Romagna, che era il piatto forte del programma di infatti Ferri. Adesso mi verrebbe subito come mai non ci sono più le mostre, non c'erano più le mostre in Arte Fiera? Sì, ecco, questa cosa adesso che non sono più direttore, ecco, lo puoi dire. Perché allora costavano un sacco di soldi e non, perché e non suscitavano un interesse limitato non solo nel pubblico, ma perfino nelle istituzioni che partecipavano, e che pure avevano una visibilità pazzesca, perché certe istituzioni della provincia emiliana romagnola ricevevano, cioè le opere che loro prestavano erano viste da più persone nell'arco di 4 giorni di quanto probabilmente mediamente tutta fosse la vita dell'arco museo, esattamente certo, tutta la vita del museo. Ma questa cosa non fregava niente a nessuno. Ma insomma, diciamo che dopo 2 anni di tentativi, quando abbiamo non l'abbiamo replicata, c'è stata di non so, tipo 25 istituzioni che hanno coinvolto, c'è stata una che ha telefonato e ha detto: ma non le fate più, una. Ah, vedi, gli altri, cavoli, non gli si altri sono non neanche se ne sono accorti. Neanche... No, perché invece io mi mettevo nelle scarpe di chi paga il biglietto di Arte Fiera per vedere arte, un fruitore generico che però forse non è il target, che non è il target di Arte principale. Fiera, però comunque queste persone esistono e magari appunto gli dai anche una bella mostra, ci sta. Certo. Però probabilmente non se ne sono accorti neanche loro che non c'era più la mostra di pittura, non lo so. Ed è andata così. Io avevo in mente una cosa da dire, me l'hai fatta scappare, però ah, così ti sta bene. Mi sono scappati i cavalli. Chiamami, magari il mondo tra mezz'ora scompare. Parlami di quando il tempo lo sapevi ammazzare. Davvero, cercami. Mi riconosci in mezzo a tutta la gente distratta. Pensami mentre la notte viene uccisa dall'alba e tu non ci sei. Ci siamo persi ormai, ma non cambia niente. Che ritornerai, già come fai sempre. Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù, per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più. Ho conosciuto le bombe, lo yo-yo, l'inverno, la schiavitù, ma c'eri sempre tu che mi tenevi su. Sono già troppe le cose che devo dire che poi non mi ricordo. E allora dilla subito, perché io una me la sono appuntata perché mi stavo dimenticando, mi è rivenuta in mente, bene. Però vai con la tua che io ormai no, la mia era ho messo i coma cose, perché i coma cose sono a Sanremo da domani. Ma cosa c'entra con quello che niente devi dire? No, perché io sono un fan dei coma cose, per questo. Oddio, cosa succede? Oddio. Ah, ecco, vedi, appena ho detto fan dei coma cose, si è sfanculato l'MP3. Si è incomato, è saltato tutto. Bello, si è però. Incredibile. Abbiamo fantastico questa bellissima musica di sottofondo che rende ascoltabile il resto 333 180 94 94, se volete mandarci un SMS o un messaggio. Potete farlo, questo è Cox Spaziale naturalmente, e volevamo dire che il motivo per cui questa sera non c'è Lorenzo, anche se ci ha paccato anche l'anno scorso, Lorenzo Balbi è il direttore del Mambo, e invece stavolta ha una buona scusa, è andato in Africa e quindi salutiamo Lorenzo Balbi e... No, presente quando Veltroni ha detto se non vinco le politiche vado in Africa e poi non c'è andato, era un po' così, no? Invece era Balbi era Veltroni. Era Veltroni o era Renzi? Era Renzi. Mi confondo tra questi, vabbè, sono interscambiabili praticamente. Ah beh, allora. No? dai, non proprio, proprio completamente interscambiabile. No. Almeno Veltroni amava il cinema. Sì, è vero. E dunque, invece, la mia domanda che mi sono scritta. Fai una domanda che ti sei scritta. Cioè, è una domanda, è una riflessione più che altro. Simone, tu ti sei beccato Arte Fiera durante i gravi anni del Covid, quindi hai tirato fuori l'Arte Fiera da questa palus in cui era finita e la lasci. Tra l'altro con una versione di Arte Fiera fantastica in cui tutti si lamentavano, però è il bello che era che era in maggio. Io devo dire che quella cosa lì mi è piaciuta tantissimo, il fatto di andare in giro in bicicletta durante Art City, quella era bellissima. Comodo però il mercato dell'arte forse un po' meno. Assolutamente, anche perché c'era nell'aria che fosse l'ultima Arte Fiera della storia. Esattamente. Mentre invece poi non è stato così. E c'era nell'aria anche la possibilità che fosse la mia ultima Arte Fiera, certo. Ma insomma, ecco, diciamo che in quella circostanza decidere di resistere invece che mollare il colpo è stato difficile, ma ha dato frutto, ecco. Sono stato tentato perché insomma era stata davvero problematica, però, e non per tornare nei panni del direttore che difende la propria fiera, però anche se la nostra è stata veramente un'edizione molto problematica, ve le ricordate le primissime edizioni post-Covid di Mi Arte, di Artissima? Due fiere che io, di cui non perdo un'edizione, che sono sempre interessanti, con Artissima un legame fortissimo, ci ho lavorato come curatore indipendente per 7 anni, ma c'erano veramente edizioni di emergenza, diciamocelo pure, insomma. Per cui Bologna è stata particolarmente sfortunata, però per tutti era stata molto fortunata l'anno prima perché non aveva. Esattamente, noi abbiamo pagato il dazio di essere stati quelli che erano comunque riusciti a farla nel 2020. Nel 2020. Ecco. Abbiamo un messaggio da Rebecca che dice: la playlist fatela comporre a Simone e levate la musica di sottofondo, è quasi più insopportabile di me. Ho la sensazione di conoscere chi è la anch'io persona. La sensazione di conoscere questa Rebecca. Chi è? Rebecca è una giovane artista che è stata avvistata nei giorni di Arte Fiera mentre faceva una performance guerriglia, quindi non autorizzata, e in cui girava per la fiera con un sacchetto del pane sulla testa. L'ho vista, bellissimo. Infatti mi è molto piaciuta. Sì, era molto bella questa. Ma è un artista il cui lavoro va scoperto, insomma. Rebecca. E anche Avevo avuto la tentazione di fare quelle cose tipo Marachella e andarglielo a sfilare via, però ho avuto rispetto della sua performance hai avuto paura di Rebecca, altro che. E anche un po' paura di Rebecca. Beh, non sapendo chi c'era sotto, poteva essere Luca Rossi. No, Luca Rossi, beh sì, perché chiunque può essere Luca Rossi, come Luca Rossi ribadisce, quindi. Allora ho una domanda per Rebecca, ma quando hai fatto questa performance eri Luca Rossi o eri te stessa? Chissà se ci risponde. Intanto le alzo la musica di sottofondo che lei sta odiando. Non so che cos'è questa roba. È una roba che ha a che fare con Lolli, forse i Maze, non mi ricordo. Allora prendiamocela tutti con Lolli. Esatto. Ma quindi rispetto. No, io ero curiosa di sapere queste cose proprio di contabilità spicciola. Cioè, se mettiamo a confronto l'Arte Fiera, l'ultima Arte Fiera pre-Covid, con quella che ci ritroviamo adesso, come siamo? Il bilancio è positivo, in crescita rispetto ad allora? O? Ah, di denari proprio? Sì, parliamo di denaro, no? Perché non è quello lo scopo di Arte Fiera. Non è tanto per discrezione quanto veramente per ignoranza, che io devo essere molto prudente su questo tema, però sì, è decisamente più favorevole. Sì. Hai capito? Sì. Fantastico. Sono cresciuti i costi, le gallerie non hanno smesso di venire, anzi sono aumentate di numero, e quindi siamo in quella situazione dove il futuro direttore prenderà si trova la situazione facile e così. Adesso poi ci verrà a dire magari, però. Ma no, stiamo scherzando. Davide Ferri ci snobberà sicuramente e non verrà a Coxo Spaziale. Davide Ferri è un galantuomo oltre che un amico, e io sono certo che verrà a Coxo Spaziale. Vedremo. Allora, poi detto questo, può anche darsi. Gliel'avevamo anche proposto, in realtà. È vero, gliel'avevamo proposto. Un po' a gamba tesa, gliel'avamo già gliel'avamo proposto, ma lui era esausto e voleva tornare a Roma dalla sua famiglia, per cui okay. Allora, giustificato. Sì, no, in effetti volta. Aveva curato una gran bella mostra anche quest'anno. Gran bella sezione. Che e mostra, hai ragione, mostra, quella di Palazzo dei Toschi. Stavo pensando a Peggy Frank a Palazzo dei Toschi, che fra l'altro è su per un altro po' di tempo, per cui se non l'avete vista andatela a vedere. Perfetto. E quindi dovresti mettere lo stacchettino... Uno stacchettino, quello non sappiamo cosa dire perché siamo rimasti un po'. È passato un angelo quasi. No, però mi dà degli errori nella lettura. Oddio, no, ma aiuto. Forse non posso farvi più sentire niente. Forse. Continuiamo a parlare del. Parla un po', che qua, Continuiamo a parlare non funziona più niente. Qua intanto non funziona nulla come al solito nella nostra trasmissione. Succede. Ma invece le altre fiere sono messe altrettanto bene. Cioè, perché volevo arrivare al succo. Cioè, il merito di Simone Mengoi in questo arco di cosa sono? Sette anni. Sì, mamma mia. Ma il merito non tanto mio o in parte mio, ma comunque della squadra che ha lavorato alla fiera, è di averla di aver fatto sì che tornasse ad essere competitiva con le altre fiere nazionali, che non fosse proprio le calcagna delle altre, ma che trovasse la sua nicchia e che fosse agguerrita e che si contendesse le migliori gallerie italiane con le altre, che è un fatto. Basta scorrere la lista delle gallerie di quest'anno, insomma, conosciamo tutti, non c'è tanto da ricamarci sopra. Quindi grande successo direi di questi 7 anni, Gwendalina, ricordi positivi, momenti di grave stress? Io mi ero anche domandata una cosa proprio molto banale, ma cioè se un direttore o l'assistente del direttore di Arte Fiera la persona muore. Non volevo arrivare a questi toni così drammatici e cupi. Va bene che dobbiamo fare la lacrimuccia per il congedo, però cioè almeno manteniamoci in vita. No, pensavo cioè magari si ammala, cioè non so cosa viene l'influenza. Vabbè, ma sono una partita IVA, se si ammala non so cazzi loro. Esattamente. Certo. Parole sante. Semplicemente non si possono ammalare non durante Arte Fiera. Non è mai successo momento di impanicamento di questo genere, proprio in forma sbagliata. Io vorrei dire che la mia prima edizione è stata quella di maggio. E certo. Quindi per me è stato battesimo del fuoco, del bombardamento al Napalm proprio. Sì, quello è stato un momento. Perché era più difficile delle altre farla a maggio? Era ma più perché è stata complicatissima perché c'erano altre due fiere contemporaneamente nel quartiere di Bologna, cosa che non ha precedenti perché Arte Fiera è sempre sola quando apre. Le squadre di lavoro che erano già ridotte, perché vi ricordate dal momento in cui venivano ingaggiati dai cantieri per il super bonus, si sono divise fra tre fiere. Risultato, c'è stato un ritardo molto grave nella allestimento degli stand. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori. C'è Marco Roma per voi. Ci hai messo due Marchi Roma. No, mi sono accorto che c'è sempre Antonio Grulli quando ci sono ste robe registrate. È vero, potevamo c'è chiamare la voce Antonio di Grulli. Antonio Grulli. Potevamo chiamare Antonio Grulli, ma così? Forse non c'è, forse via Antonio Grulli. Non lo so. Mi ha scritto. Ma Marco Roma, quanti messaggi mi manda al giorno? Uno, credo. Uno solo. Alle volte anche due o tre, dipende, ma non a noi, li manda alla radio, però questo in particolare l'ha mandato a Cox Spaziale. Secondo perché me quella Marco sera Roma mia gliel'ha chiesto. Faccio questa ipotesi. Uno scoop mica da niente. Va bene, io ho portato dei regalini per i nostri ospiti e loro mi hanno detto che li volevano ricevere in diretta. Sì. Quindi, visto che comincio con quelli per Simone, innanzitutto la matita IKEA evoluta, questo è un regalo di Luca Rossi. Bellissima, wow. Bellissima. È una prova d'artista perché è una tiratura di 10, è un multiplo, vedo, e questa è una prova d'artista. La userò per disegnare il floor plan delle mie prossime mostre. Fantastico. Quindi, così puoi disegnare il tuo futuro. Sì, no? Sì. E l'ovetto del Museo dell'Homme che non può mancare nella collezione di... Volevo cercare il numero 102 perché oggi è il 102, però siccome non l'hai trovato. No, perché doveva venire Pasquini. Ma è un di quelli, come si dice, l'uovo da rammendo? È un uovo da rammendo e con sopra il simbolo del Museo dell'Homme, che se non conosci ti invito a visitare. Non no, so se sì, tra l'altro io quando ci ho messo Museo dell'Homme di Parigi? Ma no, Museo dell'Homme di Bologna. No, non lo conosco, confesso, e faccio una bruttissima figura. Che ma... bello, beh, sono contenta così. È dentro al museo, al museo medievale. È dentro al museo medievale. Un cassettone dentro al museo medievale. Io devo dire che la volta che ho buttato dentro una mano per tirare fuori l'ovetto è uscito il 23, che è il mio numero preferito e fortunato. E hai dunque... giocato lì tutta la tua fortuna. Esatto. Dopodiché... No, allora l'ho comprato naturalmente. Costavano poco, no? Ma quello era tanti anni era fa. Tanti alla anni galleria fa. Neon costavano 15 euro. Adesso bisogna applicare il coefficiente di rivalutazione Istat. Non so cosa sono viene tipo fuori. 17 euro. Ma se magari se fai una pausa musicale, provo a non far, ce l'ho una pausa cercare. Musicale perché gli MP3 sono scancrenati. Giocati tutti. Posso, allora niente. Non so, ve lo dico la prossima puntata. Quanto vale oggi il l'ovetto del Museo dell'Homme? Cioè, se vuoi che vi metto cane morto, ma non mi sembra il caso. No, non faccio in tempo. E poi comunque grazie, no, che io veramente non ho apprezzato molto tutto quello slego. Vabbè, e questa è invece per Gwendalina Piselli, fuori registro, perché tu hai curato anche una sezione Book Talk negli anni passati, giusto? Sì, sì. Magari dici qualcosa, allora ho pensato che... Oh, grazie, grazie. Di cui parleremo la settimana prossima, il 17, ne approfitto per ricordare che ci sarà un focus, su fuori registro il 26 febbraio ad Adiacenze, e non ne parleremo però il 24 perché io il 24 sono a Firenze, quindi insegno lì. E allora, io non ne farò parola perché non voglio che la gente verrà a Ma perché registro. Scusa, non vuoi che venga? C'è anche tuo pezzo in mostra? Perché appunto, per il conflitto di interessi, non possiamo un mio pezzo in mostra e dunque... Ma se non fai non altro può... che parlare di te in tutte le tre... Ma se tieni in piedi questa trasmissione solo per poter... Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, lasciamo comunque perdere queste in cose. Fondo anche i politici votano per loro stessi, quindi perché non parlare di infatti. Se stessi infatti perché non parlare di se stessi. Coxo spaziale non l'ascolterò mai, sentito? Ha detto io coxo spaziale non l'ascolterò mai. Qual è stata, Gwendalina, l'edizione del Book Talk che hai curato quest'anno? Sono in realtà tre edizioni. Il primo anno io e Simone l'abbiamo fatto insieme, diciamo, come primo esperimento, e dall'anno successivo, il primo anno insieme, un lavoro di squadra, o di coppia in questo caso. E invece dall'anno successivo, quindi questo è il terzo anno, insomma, ho curato io, ovviamente con la supervisione di Simone in quanto direttore artistico, e sono andati tutti benissimo. Ogni anno la richiesta di presentazioni e la mia volontà anche di inserire i nuovi titoli che escono funziona sempre. Quest'anno c'erano 20 incontri, abbiamo dovuto togliere dal calendario quella che per me era la pausa pranzo, nel senso che tra le 13 e le 14 il pubblico mangia, invece no, volevano essere tutti presenti dalla tefiera, tutti presentare un libro, e quindi veramente abbiamo fatto presentazioni anche alle 18. Infatti mangiavano mentre voi presentavate i libri. Esattamente. Era lì vicino al bookshop, giusto? Sì, sì, sì, è proprio sempre al centro servizi, in prossimità del bookshop di Corraini, perché tutti i libri che vengono presentati sono poi in vendita per supportare comunque, insomma, sia gli autori e le autrici che partecipano che il mondo editoriale, che è un po' quello lo scopo, no, di questi allora, incontri. Adesso, visto che tanto cambia tutto, no? Da adesso in poi sarà tutto completamente diverso, possiamo dire come funzionava? Cioè, avevate una lista, sceglievate voi, chiamavate? Dici dei libri? Sì, perché immagino che saranno stati molti di più le richieste di quelle a cui avete potuto dare spazio, sì, presumo. Sì, assolutamente sì. Diciamo che c'è la base di partenza erano dei miei desiderata, cioè di nuovi titoli e di prossime uscite, guardando i cataloghi delle case editrici di settore artistico-culturale, sia case editrici emergenti che case editrici insomma affermate, e poi erano veramente tante le richieste che arrivavano, perché logicamente insomma il mercato editoriale va, si pubblica tanto e ogni tanto ci si perde qualcosa, e quindi arrivavano queste proposte e alcune abbiamo dovuto dire di no. Succede. Alcune abbiamo dovuto dire di no, esattamente. Questa era la risposta di quelli a cui avete detto di no. Insomma, qualcuno l'ho invitato a... Se la prossima edizione nelle prossime edizioni ci sarà ancora un interesse a fare questo tipo di contenuto, di provare a ripresentarlo, perché comunque insomma si trattava anche di pubblicazioni molto recenti, in prossima pubblicazione quindi 2025, quindi ancora tutte da scoprire e da presentare insomma. Per cui intanto sappiamo che l'anno prossimo ci sarà di nuovo Arte Fiera, che non è così scontato. Questo direi che era scontato, è stato annunciato il direttore, non penso che possa appunto, avere... dico, essendo stato annunciato il direttore nel prossimo anno, sappiamo che ci sarà Arte Fiera. Sappiamo anche già le date dell'anno prossimo di Arte Fiera, chi lo sa? No, non sono state annunciate. La spostiamo a maggio? No! Guarda, comunque c'è bel tempo. Beh no, quest'anno è andata anche abbastanza bene, a parte sabato sera che piove. Beh, sabato sera deve piovere, perché l'Art City White Night. Che peccato, che sfortuna. Ma siete riusciti a vedere qualcosa, Simone? Il direttore di Arte Fiera riesce a vedere qualche cosa di Art City? Molto poco. Per esempio non ho visto tutto il circuito delle porte della città, niente di niente, per cui me lo riservo adesso per questa settimana e la prossima. Ah no, in effetti a questo proposito volevamo proprio fare così. L'angolo della menzione. Che non è una vera e propria angolo della menzione, ma è un chiedere ai nostri ospiti che cosa andranno suggerire. A vedere, visto che molte delle mostre sono ancora aperte, saranno aperte fino al 16 febbraio di Art City. Mi chiedevo appunto quale andrete a vedere o che cosa consigliate ai nostri ascoltatori. Io ho già detto Peggy Frank a Palazzo De Toschi, curata da Davide Ferri appunto, e siamo senz'altro d'accordo. Poi ci sono tutte le porte della città da vedere, certo. Io ho apprezzato molto quella di Susan Phillips, che fra l'altro ho quasi convinto a venire a Coxo Spaziale, perché tornerà a Bologna tra non molto. Ma splendido, fa una presentazione? No, viene a Bologna, è stato annunciato in Accademia, viene a Bologna perché le è stata commissionata un'opera sonora per celebrare i 150 anni di Guglielmo Marconi. Bellissimo. Per cui verrà a Bologna a fare questa cosa. E poi mi è piaciuta la porta di Valeria Furian. Valentina Furian, tra l'altro è piaciuta anche a Nacho, perché io... Ma si può entrare anche, perché io non l'ho ancora vista quella, non sono riuscita, anche al museo di speleologia. Certo. Bellissimo, tra l'altro, quindi doppio motivo per andare. Io non ci sono andato al museo di speleologia, ho guardato solo video fuori. Devo dire che è molto comodo che siano aperte dentro. Sì. Molto comoda questa cosa, infatti, che rimanga aperta una settimana in più dopo la fiera, perché logicamente i quattro giorni di Arte Fiera per noi è assolutamente impossibile. Quattro, se non sei, considerando insomma i due giorni di allestimento. Ma su questa questione delle tempistiche, chi è che detta legge? Il budget, immagino. No, cioè, detta legge. Ma no, Art City. No, aspetta, che io poi qua. Allora, facciamo chiarezza anche su questo, perché abbiamo fatto l'organigramma. Facciamo anche chiarezza su Art City. Perché Art City tu partecipi alla selezione dei progetti? No. Viene scritto così. No, è corretto. Però, partecipo insieme a Lorenzo e a altre persone espressive. Cioè, è scritto così, ma non è vero. No, è verissimo, ma sono le proposte, diciamo, più sì, è l'insieme degli eventi, quindi ci sono anche tante cose dal basso, spontanee, eccetera, laddove la l'ossatura, la struttura istituzionale, il main project sono tutti decisi da Lorenzo. Infatti quello volevo chiarire, cioè non è tu non sei direttore artistico di Art City, Lorenzo Balbi è direttore artistico di Art City. Ma tanto lui è in Africa, per cui possiamo dire quello che ci pare. Perché non avrà mai tempo di riascoltare questa puntata. Conoscendolo ci sta ascoltando diretta, per cui lo salutiamo. Ciao Lorenzo. Ciao Lore. Ciao Lorenzo. E così. Io mi sono mancato per Barclay, la strage degli innocenti. Io l'ho vista da fuori. Non sono riuscita a vedere la performance, insomma, cos'è? C'era un evento a prenotazione. Sì, ma era un evento di danza che non era necessariamente per forza collegato. Sì, non era una coreografia decisa da lui. Penso che sia stata una, come dire, un invito che l'ha visto consenziente, insomma, ecco, però non era veramente parte dell'opera. E poi devo andare a vedere, ci andrò il 13 febbraio, devo andare a vedere Sabrina Mezzacqui, I quaderni di Hannah Arendt, al Centro delle Donne di Bologna. Allora magari ci mettiamo d'accordo e andiamo insieme. Ma ci dovrebbe essere un finissage il 13, se non vado errato. A che ora? Allora dai, che siamo nell'angolo della menzione, menzioniamo Sabrina, che salutiamo tantissimo. Tra l'altro, scusa, Sabrina, è mai venuta qui a Coxo? Sabrina non è mai venuta a Coxo. Allora bisogna evitare. Va cooptata, rimediare Sabrina presto a Coxo Spaziale, ma intanto il 13 alle ore. Non lo so. Aspetta, alle ore forse non ce l'ho lo so. Nel mio calendario. Magari personale. Domani lo scriviamo sul blog. Perché forse me l'ha spedito la Manuela Valentini, che è la curatrice. Vabbè, insomma, adesso ognuno, quando qualcuno di noi 17, ha un po'... alle ore 17, finissage. Speriamo di non aver sbagliato a scriverlo nel mio calendario, perché dopo poi mi uccidono. Poi cos'è? Beh, che un orario sensato per una biblioteca, infatti, tutto sommato, quindi... Tra l'altro io cos'altro ieri sera... Cos'altro ho mancato io, che invece è ancora aperto il sera? No, scusa, vai avanti. Ma era una parentesi molto parentesi, cioè che portava in tutt'altra direzione. No, dicevo che ieri sera sono andata ad Alchemilla, evento che invece è concluso. È concluso ieri, infatti. C'era una mostra a cura di Gabriele Tosi, di un artista di cui adesso cerchiamo il nome perché purtroppo non lo ricordo, voluto sensibilizzare a questo termine coniato da Hannah Arendt, che è overnaming, che è qualcosa da evitare, se ho capito bene, sarebbe quando tu già decidi quello come sarà il futuro, no? Cioè un po' il nostro ipotecare il futuro su un concetto, perché la mostra era sul cambiamento climatico e quello che è. Ci si potrebbe aspettare. Jason Hendrik Huntsman. Mi hai preceduto. In Our Real Life. Esattamente. Esatto. E allora, quando dicevo non è tanto più forse nelle nostre mani, lui diceva però non bisogna fare overnaming, citando Hannah Arendt. Quindi, vedi. Bene. Anche alcuni amici me l'hanno consigliata, nel senso mi hanno detto che era un bel progetto. Sì. Una mostra, sì, non si può dire bella perché era molto forte. Beh, del resto Gabriele Tosi è un curatore fantastico. Beh, certo. Cura le mostre di W. Pasquini. Con questo possiamo anche chiudere l'argomento. Esatto. Infatti. Come, visto che siamo nell'angolo della menzione, quella che è attualmente in corso al Museo Ebraico di Bologna, che si intitola Una linea più scura, più buia, è più bello il titolo. Così. Tra l'altro è preso da una canzone di De Gregori, che non c'entra niente, però. Che non è in playlist e che comunque anche se ce l'avessi non potremmo suonare, non andrebbe. spero che vada la sigla finale, se no. Beh, aspetta un attimo che sono ancora io, vedo ancora un quarto d'ora davanti a noi che voglio chiedere ancora ecco, Simone un altro avevo una domandina per Simone, cioè due domandine, una che riguarda questo fenomeno che ho constatato negli stand o nei booth, non so come li vogliamo chiamare, delle accademie. Cioè, ha detto Davide Ferro che toglie tutta quella roba lì, basta, accademia. Anzi la brucia proprio. Ma tu hai un sacco di indiscrezioni comunque. Sì, indiscrezioni che non abbiamo neanche noi. Vabbè, però scusa, no, io adesso che insegno in accademia, cioè mi soprattutto mi quella di Firenze. Ah, grazie. No, che invece era molto bella e tra l'altro c'era anche una mia studentessa, quindi insomma non posso che parlarne bene, però appunto perché c'erano mie studentesse ho constatato che loro non si muovevano da lì, cioè ho chiesto, ma andate a vedere, sono 270 eventi, mostre anche molto interessanti, e loro, prese dal delirio del contatto con la galleria, non, cioè, non gli veniva l'ansia all'idea di muoversi al di fuori. E io personalmente, non voglio condizionare le risposte successive, però non vedo questa dinamica in modo totalmente positivo, perché da studenti, insomma, se uno non sperimenta un po' e non si cioè un po' di nutrimento prima di, ci vuole, no? No, se non altro poteva andare in giro e dire ho una mostra, cioè ho delle opere dentro. Ma anche se non vai in giro, insomma, non lo so. Come si può trovare un equilibrio tra... Tu hai constatato nei giovani artisti questa dinamica di ansia da prestazione? Effettivamente vedevo molti ragazzi e ragazze che gravitavano intorno a questi stand un po' a grappoli. Sì. E, allora, dai, spezzo una lancia. Innanzitutto io la trovo una cosa più tenera che scala. Altra. Nel senso che un artista anche, insomma, astuto, calcolatore, voglioso di contatti, sa che ci vuole un minimo di distacco, non è che devi presidiare la tua opera, fa un po', dai, così. E quindi questa cosa qui è tenera, denota non una scaltrezza ma un'ingenuità, e quindi a me fa simpatia. E poi dall'altro un pochino li si può capire, perché ben due artisti che avevano esposto l'anno scorso negli stand dell'Accademia sono stati notati da gallerie che espongono in fiera, e quest'anno erano negli stand. Ah, wow. Non negli stand dell'Accademia, ma negli stand delle gallerie, ben due. Insomma, è sorprendente. No, questa è una buona. È una buona cosa, però no, crea un po' di ansia. No. Cioè, bisognerebbe per riuscire ad ottenere questo stesso effetto senza, come dire, senza che la finalizzazione di tutti gli studenti sia solo, perché altrimenti diventa un po'... No, non so, certo. Se capisco. Ma guarda, aggiungo un'altra cosa, che questo, il fatto di stare lì vicino alla propria opera non è solo l'ingenuità di pensare che se ci sei tu allora ci sarà l'interesse, sarà maggiore, o sei lì pronto a intercettare il contatto, è anche il fatto che questi ragazzi vogliono stare vicino a questi loro bambini che li vogliono proteggere, che li vogliono spiegare. Questa cosa è veramente, io tutto sommato la vedo come una bella cosa, sinceramente. Non è una cosa, dai. Io, se posso, aggiungo un'esperienza personale, perché io sono stata nello stand dell'Accademia quando facevo l'Accademia. Avevamo fatto un progetto che, insomma, io ho fatto un corso teorico perché era didattica dell'arte e mediazione culturale, però la Sergio Avveduti ci aveva invitato a fare questo stand in cui venivano, ma noi offrivamo biscotti a forma di stemma dell'Accademia di Belle Arti. Ah, oh dai, che carino. E anche noi, in realtà, mi ricordo che non ci muovevamo da lì, ma anche un po' per senso del dovere di protezione rispetto, no, a quello che conoscevamo, che erano i compagni di classe, le compagne di classe, il nostro stand, che rimaneva un po' come se l'aula dell'Accademia fosse uscita da lì. E anche i giretti che facevamo era qualcosa per vedere qualcosa di bello e dire, vediamo della storia dell'arte, no? La vediamo non in un museo ma in degli stand, ma è difficile uscire anche un po' dalla comfort zone, da quello a cui sei legato. Sono d'accordo con Simone che è più qualcosa di tenero piuttosto che un po' cinico, un po' calcolatore. Sì, no, ma io non pensavo che fosse cinico, pensavo che fosse, cioè, che magari un po' troppo professionalizzante, un po' troppo precocemente. Cioè, è un po' un tema che noi di Art City per vedere un po' di roba, ma a parte quello, che si poteva approfittare per visto che venivano da Firenze, quelli di Firenze, quelli di Bologna. Ma io un po' dico in generale, non stavo facendo una questione di tra Firenze e Bologna, io sinceramente, sì, perché tu sai. No, invece guarda, ti dico che un certo tipo di atteggiamento, che è quello a cui mi volevo riferire, secondo me è più caratteristico di Bologna, ma adesso non vogliamo creare delle competizioni. Del resto sappiamo che i migliori professori di anatomia artistica sono tutti a Bologna. No, di tutte le accademie in generale sono a Firenze, stiamo parlando di Giancarlo Norese, Chiara Pergola, mica Caffi. Allora anche qui possiamo chiudere l'argomento. Appunto, volevo anche dire che prima del 28 febbraio volevo andare a vedere Giuseppe De Mattia, Tariffa estiva, trattato semplice sulla siccità, alla Banca della Calce, che è in Bolognina, per cui non so dove sia né cosa, cioè non so cosa sia, ma lo so che cos'è, perché Barbara cos'è Baroncini, con la quale ero venuta per la prima volta a Coxo, ormai nel 74. Sì, sì. L'ultima sì, volta che ci siamo visti. Prima che nascesse. Non era nel 74, però. Aveva. Forse nel 20. Con l'Eschimo. Nel 21. La Vendaglia era venuta con l'Eschimo insieme a Barbara Marcucci. Beh, mi occupavo di residenze artistiche quando mai è successo più nella vita. E Barbara ha venduto le opere che aveva realizzato grazie alla collaborazione alla Banca della Calcia alla Banca della Calcia. Ah, vedi. Hai capito. E che cos'è questa Banca della Calcia? Infatti, cioè, vendono la calce al posto del calcio e struccio. Ah, dai, ma calcio, fantastico. È un'azienda che produce realmente? Calcio. Sì, sì, veramente. È incredibile. Hai capito. Sì, sì, e aveva fatto realizzare a Barbara questi soffitti che erano di polistirolo, che però avevano questo strato di calcio molto sottile. Incredibile. Io pensavo che fosse una roba tipo gelateria Sogni di Ghiaccio, che invece vai invece lì no. per comprare un gelato e invece trovi, e allora adesso trovi le Caterina prossime Molteni puntate che io purtroppo video. Non ci sarò. Ah no, fra l'altro, a parte le menzioni, venerdì c'è sempre qualcosa alla gelateria Sogni di Ghiaccio, per cui venerdì sera se vi manca Art City, sappiate che venerdì sera dalle 19 in poi potete andare alla gelateria Sogni di Ghiaccio. Non mi chiedete cosa ci sarà, ma qualcosa ci sarà. C'è, oppure se anche non c'è niente, comunque ci sono loro, quindi no ci sarà qualcosa, fidati, va così bene. Dicono no, ma così allora a me veramente avevano detto un'altra cosa che cioè non sempre tutti i venerdì c'è qualcosa, però loro comunque ci sono e magari si improvvisa anche, però va bene e qua abbiamo tempo ti per credo sulla domanda. Parola sì certo allora, un'ultima domanda sì per Simone, però magari anche per Guandalina, non lo so. Voi influite sulla scelta, cioè la galleria presenta vi presenta un progetto espositivo per essere ammesso ad arte fiera? Per regolamento. Questo lo sapevo anch'io, il regolamento. Pensa che lo sapevi perfino tu, pensa e io invece no. Allora, l'hai ignorato per tutti questi anni. Bastava andare a leggere il regolamento. Ma io non la vendo la galleria poi. Ma no, ma non ce l'ho neanche io. Non mi è venuto però in mente la sapevo. A vedere. Questa dai, la sapevo. Basta, finito? Sì, la domanda. Ah, ok, no, va bene, vabbè, così possiamo. No, se si può fare, una... No, invece io voglio sapere, ma invece se per caso, ok, ti piace tutto il progetto, però uno degli artisti ti sta sul cazzo, gli dici, beh, magari però questo sì, si potresti... Può. Anche sì, da regolamento si può fare. Puoi anche fare cioè, questo. Puoi anche dire togli quello. Questa certo, no, questa prerogativa è stata esercitata più volte nel corso. Ecco, hai capito, allora... ma proprio per antipatia personale. Sì, sì, sì, non ho proprio nel caso, per esempio, di furto di fidanzata, no, perché faide familiari. No, perché proprio, a me quattro volte mi hanno detto che avrei partecipato ad arte fiera, che ero nel progetto, e poi quattro volte mi hanno chiamato, allora mi chiedevo... come mai sta cosa non durante non sicuramente non nei miei anni era una battuta, ecco. Okay. Non è vero, era tutto falso e quindi insomma non facciamo arrabbiare, cioè rimanete amici di Menegoi, perché non si sa mai. Rimanete amici di Davide Ferri, esatto. Menegoi potete a questo punto è la vostra grande occasione di tirarlo sotto con la macchina senza patire alcuna conseguenza. È la volta buona che potete mandarlo a fanculo senza conseguenze. Molto salvo bene. Essere mandati a vostra volta, perché anch'io non ho più niente ma da perdere. Ma poi comunque non si può mai sapere, perché nella vita non so, io ecco, quando questo lavoravo è il tipico atteggiamento che Luca Rossi dice nessuno critica nessuno, perché non si sa mai che no, ti però tirare sotto con la macchina non è esattamente criticare, ma anche qui guardate che cioè non è un volo della fantasia, sono stato realmente minacciato da un gallerista di essere investito. No, veramente? Certo. Allora, testimone Guendalina. Allora com'è? La prima domanda che ho fatto, come hai fatto a sopravvivere, non era proprio... Non era fuori luogo. Wow, incredibile. È un mestiere pericoloso, quindi facciamo sì. I nostri migliori auguri a Davide esatto, Ferri. Sperando che unisco i miei. Simone Menegoi ne è uscito vivo, speriamo che non ci siano... casualties, come esatto. Si dice e facciamo i nostri migliori auguri a Davide Ferri, che aspetta, che magari verrà a Coxo Spaziale per raccontarci cosa è successo l'anno prossimo, perché io non è che lo invito prima della fine di Arte Fiera, certo, però devi mettere le mani avanti, devo mettere le mani bisogna avanti. Cominciare attimo a... intanto gli mando un messaggino stasera, tipo ti aspetto il aspetta che ti dico il 13 febbraio 2026 no, in effetti forse su Art Forum è già pubblicata la data dell'anno prossimo. Chi ma si fa sempre a fine febbraio, io non ricordo, cioè, inizio... non ricordo di aver visto le date all'uscita, quindi sono state ancora annunciate. Ah, vedi, quest'anno è stato terribile perché cadeva nel mio compleanno, quindi ho avuto un compleanno ormai è passato, era il 7 proprio. E quindi sì, è stato un compleanno poco. Sento dei rumori di fondo e dunque che ci dicono che dobbiamo andare, però dobbiamo chiedere come vedete il vostro futuro, non so, progetti, cioè, quelle domande banali tipo progetti per il futuro. Silenzio. Silenzio. Prima un silenzio totale. Prima tu. Niente. Al mio futuro più prossimo c'è un treno per tornare a casa a Roma. Questa è la cosa più prossima che c'è. E il futuro più là, ho dei progetti che sono miei. Io organizzo una piccola fiera di editoria a Roma da 3 anni e quindi vorrei continuare a farla crescere, anche data l'esperienza nella parte di produzione di questi 4 anni a Bologna, che insomma sono stati una bella scuola, una bella palestra. E poi con la partita IVA non c'è malattia, c'è solo ricerca del lavoro, perché intanto uno non basta mai. Esatto, sembra, avevi esordito, sembra con la partita IVA il lavoro arriva sempre, non c'è mai problema proprio, no? Cioè. Nel mio prossimo futuro c'è una caffiata da parte di Panta80, perché abbiamo sforato di brutto e vabbè, ci perdoneranno anche questa volta forse. Per me qua sono sempre 57. Ringraziamo, qua ci sono i 59, infatti, dunque sono i 59. Ma non è la sigla, dove la mettiamo, scusa? Ma la tagli, dai. Vabbè, ringraziamo tantissimo l'ex direttore di Arte Fiera Simone Menegoli. Grazie a voi. Personal assistant dell'ex direttore. Momento, personal assistant, producer di tutti gli eventi del public program e curatrice dei book talk, altro che personal assistant, che sembra la segretaria. Mettiamo i puntini sulle i. Un applauso alla Guendalina Piselli, che adoriamo tutti da sempre, fra l'altro. E dopodiché ci salutiamo con le parole del nostro direttore, che come al solito dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Fantastico. Non c'è più la sigla. Come vi ho detto, è saltato tutto, per cui ma è perfetto, così va direttamente Panta 80. Vado direttamente così.